Radio 24 Reportage. OPG Addio, tra ritardi e polemiche, di Valentina Furlanetto. Credo che ci sarebbe bisogno di più attenzione, perché non bastano solo i farmaci, ci vuole un modulo abitativo, ci vuole un po' di soldi per affrontare le spese quotidiane, ci vuole qualche attività che ci tenga impegnati durante la giornata, se no corriamo il rischio di crollare nella depressione più assoluta e perderci totalmente. Giuseppe ha 61 anni, è stato condannato due volte per aver picchiato gravemente due donne ed è finito la prima volta all'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, la seconda in quello di Aversa, dove è rimasto fino al 2010, proprio quando arrivava in quell'ospedale psichiatrico giudiziario la commissione del Senato presieduta da Ignazio Marino. C'è un paziente detenuto, completamente nudo, con polsi e caviglie strettamente legati agli assi metallici del letto. La commissione testimoniò con un video quello che in fondo si sapeva già. Quei sei ospedali psichiatrici giudiziari in Italia erano luoghi dell'orrore, manicomi e carceri assieme, con il peggio di entrambi. Una vergogna, si disse, e l'anno dopo si decise che sarebbero stati chiusi. Si fissò una data che poi slittò ancora, fino a che si decise che doveva essere il 31 marzo 2015. Ora ci siamo. Ma ci siamo davvero? Sono 704 gli internati negli OPG. Di questi, secondo il DAP, solo il 10% può seguire percorsi terapeutici alternativi, il che vuol dire che le REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, dovranno ospitare da martedì oltre 600 sofferenti psichici pericolosi per i quali non è possibile il reinserimento sociale. Il sottosegretario alla Sanità, Vito De Filippo. Il primo di aprile non è una simultanea operazione di trasferimento, si tratta di persone, non ovviamente di pacchi, e per ognuno di questi soggetti servono i provvedimenti poi della magistratura che devono autorizzare il trasferimento dagli OPG alle REMS, quindi non sarà un processo simultaneo il 1 aprile. Dal 1 aprile parte l'operazione che noi monitoreremo con l'organismo che rimarrà in vita e io spero che nel volgere di qualche mese, direi entro la fine dell'anno, di poter concludere definitivamente l'operazione di realizzazione di queste REMS. Alcune regioni saranno pronte già dal 1 d'aprile, altre ci sarà uno scadenzario, io spero che non duri molto tempo. Ovviamente il Ministero della Salute e il Ministero di Grazia e Giustizia, nel caso di ritardi eccessivi, faranno intervenire gli strumenti proprio della norma, che sono quelli del commissariamento di queste regioni. Sono 10 le regioni davvero pronte, quelle che hanno organizzato le REMS. L'Emilia-Romagna è tra le prime. Venerdì è stata inaugurata la prima REMS a Bologna. Giuseppe Nese è il dirigente medico che rappresenta la Campania nel Comitato Ministeriale per il Superamento degli OPG. Lo ha intervistato per noi Laura Viggiano. Abbiamo predisposto e attiveremo entro il 31 marzo del 2015 delle soluzioni che sono provvisorie rispetto a quelle che ormai sono note come REMS, che abbiamo programmato e che sono due definitive e che saranno attivate rispettivamente quella nella provincia di Avellino entro il 30 maggio di quest'anno e quella nella provincia di Caserta entro il 31 agosto dello stesso anno. Altro. Attualmente negli ospedali psichiatrici giudiziari della Campania, che sono ad Aversa e a Secondigliano, quanti pazienti ci sono? I dati sono molto più bassi rispetto a alcuni anni fa, 2010, quando ad esempio nell'OPG di Aversa erano presenti intorno alle 300 persone. Oggi nell'OPG di Aversa sono presenti esattamente 104 persone e l'OPG di Napoli, che ha una connotazione un po' particolare, sempre intorno al centinaio di persone, oggi ha 89 persone. Però per dare una misura di come poi una regione, pur sede di OPG, può intervenire in questo percorso di superamento degli stessi, ad esempio degli 89 pazienti, persone presenti nell'OPG di Napoli, della Campania sono soltanto 51, mentre invece dei presenti nell'OPG di Aversa, della Campania ne sono presenti appena 39. C'è anche qualche regione settentrionale che al momento non ha fornito nessuna certezza. È il caso del Veneto, l'assessore alla sanità della regione Luca Coletto. L'approvazione del progetto è avvenuta l'anno scorso, di quello definitivo, della REMS definitiva per il Veneto, e il finanziamento è stato fatto con decreto circa 15 giorni fa. Quindi il Veneto non è assolutamente in ritardo per quanto riguarda la struttura definitiva della REMS. Dai 2 ai 4 anni ci vorranno, ma questi sono i tempi tecnici per gli appalti, il governo lo sa. Ma anche le altre regioni avranno avuto i finanziamenti un po' tardi. Ma le altre regioni per quanto riguarda la struttura definitiva sono nelle stesse condizioni del Veneto. La differenza viene dalla REMS provvisoria. Quante persone andrà poi a ospitare questa REMS? In Veneto sono circa 40. Dove andranno nel frattempo in questi 2-3 anni? Dove rimarranno? È un problema che purtroppo dovrà risolvere il commissario, perché per quanto ci riguarda, come dicevo, siamo stati messi nell'impossibilità, visto il doveroso rispetto dei criteri dettati dal Ministero di Grazia e Giustizia, di trovare strutture che avessero questi cioè lei sta criteri. Dicendo che le altre regioni, le 10 regioni che hanno trovato strutture temporanee non rispettano tutti i criteri, forse? Non posso dire questo perché non conosco la realtà delle altre regioni. Posso dire che in Veneto non abbiamo strutture che rispettano quelli che sono gli attuali criteri, a meno che non vengano declassati con legge, dedicati alle REMS. Quindi queste 40 persone ci penserà il commissario? Questa è l'unica soluzione che per ora ci può essere. Ad essere ben organizzata è una regione tradizionalmente avanti dal punto di vista delle strutture penitenziarie come la Lombardia. All'OPG di Castiglione delle Stiviere, l'unico OPG già gestito unicamente da personale sanitario, verranno ricoverati anche i folli rei di Piemonte e Liguria. Il direttore Andrea Pinotti. Noi siamo pronti per avere le 8 REMS così come avevamo previsto. I 2/3 degli internati a Castiglione hanno commesso dei reati gravi, no? Molto gravi, sì. Noi abbiamo attorno al 65-70% dei reati che sono reati contro la persona. Magari anche l'omicidio molto grave ed efferato, fino alle aggressioni, alle lesioni. E verranno adesso spostate nelle REMS, no? Sì. Che tipo di risposta si dà, visto che non ci sono misure, diciamo così, di simili a quelle del carcere? Da sempre abbiamo una struttura che è esclusivamente ospedaliera, senza guardie carcerarie, senza caratteristiche carcerarie di contenimento. Noi continueremo a fare il nostro lavoro terapeutico, e per cui le REMS saranno in qualche modo organizzate per gruppi diagnostici, in modo che il personale sia specializzato per quei gruppi diagnostici specifici, quindi dare il massimo delle possibilità terapeutiche ai pazienti. Ci sono stati dei sindaci che non hanno voluto queste REMS nei loro comuni. Sì, ma anche nel Veneto, dappertutto. Cioè, quando ad esempio in Regione Lombardia si immaginava di fare 12 REMS, no? Perché inizialmente nel 2012 era stato definito 12 REMS, 6 Castiglione, 2 Ardeno, 2 Nenco Maschio, 2 Rimbiate. Beh, i comuni individuati in Regione Lombardia hanno alzato barricate anche loro, ma lo stesso so che è successo nel Veneto. Qual è la criticità più forte che lei vede per il futuro? Ho una paura, devo essere sincero, perché la gente tenderà a identificare il paziente psichiatrico autore di reato con il paziente psichiatrico territoriale classico, per cui la paura è che si torni a pensare il paziente psichiatrico come pericoloso socialmente, facendo un passo indietro di 40 anni rispetto alla legge Basaglia e soprattutto rispetto alla dignità del paziente psichiatrico. Questo secondo me è il primo grande rischio. Il secondo rischio è quello che in alcune situazioni non ci sia la capacità fino in fondo di controllare eventuali agiti aggressivi. La mia preoccupazione è semplicemente apriamo le REMS, superiamo gli OPG. Arrivato a questo punto, io mi domando: se dovessi scompensarmi e commettere ancora qualche piccolo stupido reato e trovarmi ancora davanti al magistrato e quindi dovessi essere prosciolto, in questo caso cosa succederebbe? Dove andrei a sbattere io? Questo è il mio interrogativo. Questo reportage è stato realizzato in collaborazione con Laura Viggiano, al quale va il mio ringraziamento. Valentina Furlanetto, Radio 24, Sole 24 Ore. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.